Ingrid. Quando suo marito entrò in soggiorno, Ingrid Steen nascose l'oggetto che aveva in mano nella fessura tra i cuscini del divano. Tommy le passò davanti con un sorriso meccanico e proseguì verso la cucina, dove si mise a frugare nel frigorifero, canticchiando The River di Bruce Springsteen. Ingrid si alzò dal divano e si affacciò alla finestra. Fuori i lampioni lottavano contro il buio di novembre, tra i rami contorti degli alberi spogli. Dalla casa di fronte arrivava la luce tremolante di un televisore. Tommy si schiarì la gola alle sue spalle. «Com'è andata la giornata?» Lei lo guardò senza rispondere. In una mano teneva mezza polpetta fredda, nell'altra un bicchiere di latte. Aveva i capelli radi, da sempre, ma dopo i 30 anni aveva almeno avuto il buon gusto di radersi a zero. Il fondo della camicia era stazzonato, dopo essere rimasto tutto il giorno infilato nei pantaloni. «Bene», Tommy sorrise. «Mi fa piacere». Ingrid restò a guardare la schiena di suo marito che si allontanava. Tommy, un nome da operaio. Bruce Springsteen, un eroe da operai. E invece, da quando era diventato direttore del principale tabloid del paese, l'Afton Pressen, si erano trasferiti a Bromma, il quartiere dell'alta borghesia in generale e dell'elite giornalistica svedese in particolare. Non appena nello studio riprese il suono di dita che battevano sulla tastiera, Ingrid tornò al divano e infilò una mano tra i cuscini. Pescò uno dei vecchi giocattoli di sua figlia Lovisa, un piccolo dinosauro verde che la fissava con occhi sovradimensionati, e lo posò sul tavolino. Continuò a frugare fino a trovare quello che cercava. Dopodiché uscì nell'ingresso con l'apparecchietto in mano. Il ticchettare di dita che scrivevano, davano disposizioni e cambiavano titoli aumentò di intensità. Ingrid prese il giaccone di Tommy dall'attaccapanni, con il kit da cucito nella tasca dei jeans che le premeva sul gluteo sinistro. Salì al piano di sopra ed entrò in bagno. Dopo aver posato il kit sul lavandino, chiuse la porta a chiave e abbassò il coperchio del water. Scucì un pezzetto della fodera interna del giaccone, ci infilò dentro l'apparecchio e verificò che funzionasse prima di ricucire il tessuto lucido con un paio di punti.